Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. E anche quest'anno ci siamo arrivati alla fine della scuola, alla sempre temuta e riverita maturità. Una maturità quest'anno che porta qualche novità. L'ammissione all'esame con tutti i 6 e non più con la media del 6, ad esempio. Anche se poi il ministro Gelmini ha fatto sapere che ci vuole buon senso e non si può lasciare fuori dall'esame di Stato chi magari ha un solo 5. Seconda novità, è più difficile ottenere la lode. La otterrà infatti solo chi arriverà a 100 senza utilizzare il bonus di 5 punti a disposizione della commissione e chi è stato ammesso con almeno tutti 8. Infine, anche il calendario presenta qualche novità. 3 prove scritte nella stessa settimana. Martedì, come sapete, la prova d'italiano, mercoledì la seconda e venerdì la terza ed ultima. Pro e contro di queste 3 novità. Cominciamo dalla prima, tutti 6 o quasi per essere ammessi. Il parere di Michele D'Elia, dirigente scolastico del liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano. Questo è stato più che altro un annuncio del tipo il 5 in condotta. In realtà i professori non arrivano a penalizzare un ragazzo, le insufficienze uniche il consiglio di classe ha la facoltà di arrotondarle a 6. Dopodiché, siccome il voto è collegiale, il professore lo propone, sta all'equilibrio del preside e del collegio docenti, del collegio giudicante, creare le situazioni equilibrate per cui se uno merita di non passare non viene ammesso agli esami. Ma difficile che possa accadere che per una sola materia il ragazzo venga penalizzato. Noi abbiamo ammesso quasi tutti agli esami, coloro che non era possibile salvare sono stati lasciati fuori dall'esame, non sono stati ammessi, ma la singola materia ha influito, direi, pochissimo. Questo invece è il parere degli studenti. Richiedere esattamente il 6 in tutta la materia è forse un po' restrittivo. È ovvio poi che i professori non stanno lì ad applicare con estremo rigore questa normativa. Se uno avesse anche un 5 in una materia e tutte le altre materie sufficienti, magari tolgono qualcosa da un'altra materia e diciamo compensano la materia insufficiente. Messo in difficoltà questa cosa. Un po' sì, comunque abbiamo fatto molte più interrogazioni nell'ultimo mese di scuola, spesso su tutto il programma, comunque anche per venire incontro agli studenti, però comunque i risultati sono buoni, perché alla fine i non ammessi veri e propri ce ne sono tipo 3 o 4, quindi comunque nonostante questa nuova norma noi studenti ci siamo comportati bene. È stata dura come cosa, però comunque alla fine anche un po' i professori ci hanno aiutato su questo. Se la situazione era dubbia, di solito hanno cercato di tirare su, o comunque anche con interrogazioni a fine anno sempre siamo riusciti a cavarci. Lode più difficile, il parere di Stefano Grosso, dirigente scolastico del liceo Copernico di Torino. Io credo che, insomma, prendere 100 o 100 lode sia pressoché indifferente, ecco, quindi non è tanto quello. Il discorso della lode, se vogliamo renderlo, non so, come quel voto così esclusivo e significativo e particolare, vabbè, ci sta anche che debba essere dato in quelle situazioni di eccellenza vera, o perlomeno che risultino di eccellenza. Ecco, quindi su questo io per carità non ho grosse riserve. Ecco. La mia riserva è sul fatto che si introducano questioni di questo tipo spacciandole per novità o per comunque cose che danno una garanzia di qualità, ecco. Questo mi sembra un po' fasullo, ecco. Quindi se lode deve essere che sia davvero una lode meritata, ma sì, pieno anche titolo. Perché poi, insomma, nella realtà successiva, sia di lavoro sia di studi universitari, ciascuno, voglio dire, si gioca poi dall'inizio ogni cosa, no? Quindi non è che la lode o non so 98 su 100 o 95 o 100 su 100 conti poi in modo così straordinario, no? A volte sono anche frutto di casualità queste piccole differenze. Però insomma è una bella soddisfazione, eh? Sì, sì, no, niente da dire. Chi riesce al meglio e se lo merita, anche lì bisognerebbe sempre appunto centellinarle queste cose, cioè il rischio è che poi la lode non diventi un po' come in qualche caso sono diventati 100, no? Perché col bonus si eccede, poi insomma, e si arrotonda, ecco. Cioè in certe situazioni si arrotonda, in certe altre si è restrittivi, insomma. Quindi io credo che, vabbè, sia giusto nel momento in cui sia tutto vero, ecco, in questo senso. E questa è la voce degli studenti. Il fatto che quest'anno per arrivare a 100 bisogna avere 8, almeno 8 in tutti, diciamo di media, è ancora diciamo raggiungibile. I problemi maggiori arriveranno l'anno prossimo, quando per arrivare al massimo di crediti bisognerà avere 9 anziché 8, e quello sarà ben più arduo da raggiungere. Esatto, non mi appartiene questa cosa, però comunque quelli che prendono la lode sicuramente sono quei pochi ragazzi, cioè sono pochi alla fine in classe nella scuola che hanno più di 8 di media. Si dovranno impegnare più del dovuto, anche se comunque sono tutti bravi, sono tutti in grado di prenderlo, secondo me. Ma non lo so se è più giusto, perché comunque ci sono studenti molto bravi che non so se riescono a fare il punteggio pieno in tutti gli iscritti, e forse all'orale sì, però agli iscritti è abbastanza dura fare il punteggio pieno, per cui secondo me non è giusto così. Calendario serrato, l'ultima novità di quest'anno, 3 prove in una settimana. Mario Rusconi, preside del Liceo Newton di Roma. Ma guardi ragazzi, io lo vedo anche in questi giorni in cui gli insegnanti stanno facendo nel liceo da me diretto simulazioni di matematica, persino di fisica, di latino eccetera. I ragazzi se sono stati ben allenati, come dico io, perché l'insegnante è un coach, come dicono gli americani, è un allenatore, non è il loro giudice come spesso viene scambiato, dico se sono ben allenati i ragazzi riescono a sostenere anche 2-3 prove in poco tempo, non è questo lo stress, lo stress deriva se un ragazzo arriva non preparato a sostenere per esempio allo scientifico la prova di matematica, che è il tema più difficile di tutti gli esami di maturità, o un tema di greco al liceo classico, allora avviene lo stress, insomma non sono 3 prove che possono creare situazioni di stress, ben altro, a ben altre fatiche sono sottoposti i ragazzi nella loro vita, insomma resistere al fumo, resistere alla droga, quindi queste cose le possono benissimo sopportare. E che non facessero tanta lagna dunque? No, non facessero tanta lagna, ma non la fanno la lagna, guardi, perché poi una cosa, mi spiace un po' dirlo a lei poi come giornalista, una cosa sono le cose che dicono i giornalisti, una cosa è la realtà che io vivo come preside, ho cominciato prestissimo, questo è il mio 25° anno, ne ho viste di tutti i colori, l'elemento positivo della scuola italiana sono sempre gli studenti, e non lo dico in senso demagogico, se vengono ben allenati, cioè ben motivati, ben inquadrati e così via, danno il meglio di se stessi e danno dei risultati sorprendenti. Io lo vedo negli scrutini, adesso abbiamo fatto uno scrutinio di un ragazzo che in terza ha una media quasi dell'8, era entrato così da noi in primo anno che sì e no riusciva a veleggiare sul 4,5-5, insomma, dico se la scuola punta sugli studenti motivandoli, dando loro fiducia, essendo una buona scuola gli studenti danno il massimo, il problema della scuola non sono gli studenti, il problema della scuola sono gli adulti che si chiamano genitori, si chiamano professori, si chiamano presidi, il vero problema siamo noi, naturalmente anche i politici sono tra gli adulti. Questo invece è il parere degli studenti. Abbiamo fatto anche durante le simulazioni, i propri pomeriggi erano molto pesanti, quindi sicuramente diciamo, il recupero serve, però vedremo di adattarci. Sì, infatti il problema principale è che la terza prova sarà proprio il giorno dopo, sarà un giorno di riposo e poi subito la terza prova, quindi senza neanche il weekend in mezzo, quindi sicuramente sarà più stressante di sicuro. C'è pochissimo spazio tra la seconda e la terza prova e questo è abbastanza duro, perché comunque anche adesso dobbiamo ripassare tutto e c'è poco tempo, per cui sì, è duro. Poi l'orale ci sarà un pochino più di tempo. Certo, questo potrà essere stressante, però possiamo dire che per le prime due prove scritte non, diciamo, è necessario proprio uno studio specifico, più che altro sarà il frutto di quanto è stato maturato in tutti gli anni precedenti. Lo studio servirà soprattutto per gli orali e per la terza prova. E il problema è che potranno essere anche in, diciamo, giornate piuttosto ravvicinate, se si capita, se si capita, diciamo, l'orale tra i primi, e questo potrà dare problemi al ripasso. Comunque sarà anche importante quello che si è studiato durante l'anno, perché se si è studiato bene durante l'anno basterà un semplice ripasso per essere preparati. Al contrario, se durante l'anno si è fatto poco o niente, al momento dell'orale scatterà il panico, come dicono in molti. È tutto per oggi, vi ricordo la serata speciale che Radio 24 dedicherà alla maturità lunedì sera con Federico Taddia in studio, notte prima degli esami. Noi invece ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.